Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Calano in regione gli introiti delle multe, alcuni comuni relativamente piccoli mostrano però incassi significativi. Consumatori attivi ricorda, metà delle somme va destinata alla sicurezza stradale. Pietre sulle auto in transito in galleria di Montebello a Trieste, la polizia locale denuncia un uomo portato in caserma in via Revoltella ad Atene, scandescenze. A Precenico di nuovo un ufficio postale chiuso per lavori, avrebbe dovuto riaprire a fine marzo, oggi si parla di fine settembre. Non si è visto più nessuno, denuncia il sindaco. Tassa di soggiorno, Udine conta di superare i 650.000 euro di introiti grazie alle presenze legate agli ultimi grandi eventi in città a settembre. Il tavolo con gli operatori. Sport, l'Udinese si presenta alla città, il mercato del calcio bianco-nero si muove vicino Zanoli, la pallacanestro Trieste presenta oggi il nuovo coach Israel Gonzalez. Sarà segnato a Trieste il primo titolo di campione italiano di vela d'altura, ORC Double Handed, a confronto barche diverse con equipaggi di due persone in percorsi offshore di media e lunga percorrenza. 12:31 minuti e 30 secondi, buongiorno da Andrea Saule e Rita Micoli. Non solo le città capoluogo di regione, ma anche i comuni, alcuni comuni nettamente più piccoli, si distinguono per gli introiti da multe stradali che in regione, contrariamente alla media nazionale, sono comunque complessivamente diminuiti. A incassare di più delle sanzioni erogate a chi non rispetta il codice della strada non sono solo le grandi città, ma anche i piccoli e talvolta piccolissimi centri. Lo dice un'indagine del Centro Studi Enti Locali sulla base di dati del Ministero dell'Economia e dell'Istat. La regola vale a livello nazionale, dove nel 2024 Colle Santa Lucia, piccolo borgo del Bellunese da 300 anime, ha incassato dalle multe 745.000 euro, oltre 2.100 per ogni residente, più di qualsiasi capoluogo di provincia. Ma anche se si guarda i numeri del Friuli Venezia Giulia. In cifra assoluta, al top della classifica dei maggiori incassi dalle sanzioni nel 2024 ci sono tre dei quattro capoluoghi, Trieste con 4.900.000 euro, Udine con 1.800.000 e Pordenone con oltre 1.500.000. Ma già al secondo posto troviamo la Tisana con 2.200.000 euro. E sempre in termini assoluti, i comuni che seguono nella graduatoria sono tutti medio-piccoli. Bertiolo con 820.000 euro incassati, Codroipo con 815.000, Monfalcone con 785.000 e Gemona con 630.000. Una tendenza destinata a ripetersi, guardando i primi dati, anche nell'anno in corso. In generale, scrive l'Associazione Consumatori Attivi commentando il rapporto, a livello nazionale il trend vede un aumento di anno in anno degli incassi, anche se il Friuli Venezia Giulia va in controtendenza, passando dai quasi 23 milioni incassati nel 2023 ai poco più di 22 dell'anno scorso. Secondo l'Associazione, la crescita si deve ai maggiori controlli elettronici e all'intensificazione delle attività di accertamento. L'organizzazione, in ogni caso, invita i cittadini a chiedere trasparenza sul modo in cui gli incassi delle multe vengono utilizzati, ricordando che in base alla legge, almeno il 50% dei proventi va destinato alla sicurezza stradale e che i comuni devono pubblicare online ogni anno un rendiconto. Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lanciava pietre sui veicoli in transito nella galleria di Montebello a Trieste, ora dovrà rispondere di getto pericoloso di cose, danneggiamento, tentate lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. È successo alcune settimane fa, renderlo noto il comune di Trieste, individuare e denunciare il sospettato è stata la polizia locale del capoluogo giuliano e gli agenti è arrivata la segnalazione di una persona che dal lato di via Salata stava lanciando pietre dall'alto. Mentre la pattuglia del distretto raggiungeva l'uscita della galleria, un'altra del nucleo interventi speciali andava in via dell'Istria. Proprio qui sul parapetto sovrastante lo sbocco di via Salata è stato fermato il sospetto. Gli operatori hanno notato che mentre veniva identificato l'uomo cercava di nascondere una pietra lunga circa 9 centimetri nella tasca dei pantaloni, a terra vicino a lui altri sassi di dimensioni simili. Intanto alla pattuglia all'uscita della galleria un automobilista riferiva di aver sentito un forte tonfo sul proprio automezzo in transito e di aver quindi raggiunto via dell'Istria dove aveva visto l'uomo lanciare le pietre dall'alto. Condotto nella caserma San Sebastiano di via Rivoltella, il sospettato ha perso il controllo e ha dato in escandescenze, tanto che gli agenti hanno dovuto richiedere l'intervento del personale sanitario. Una conferenza stampa per illustrare la situazione dei migranti a Trieste, definita inaccettabile dall'ICS, che dalla pensilina di Porto Vecchio, dove passano la notte centinaia di richiedenti asilo, denuncia la mancanza di risposte da parte delle istituzioni. Sentiamo. Sono accampati sotto la pensilina all'ingresso del Porto Vecchio, pochi effetti personali, qualche coperta e le indicazioni per le emergenze. Sono i richiedenti asilo che non hanno avuto ancora accesso all'accoglienza, dormono in strada e da tempo, denunciano le associazioni di solidarietà, sono oggetto di sgombri ripetuti da parte delle istituzioni. Secondo i numeri dell'ICS, i richiedenti in attesa, cioè limitandosi a quelli che hanno già fatto la richiesta di asilo, sono 113. Circa la metà aspetta in strada da 3 settimane, molti con necessità mediche e situazioni di fragilità. Avrebbero diritto, una volta presentata la domanda, a un alloggio, ma i trasferimenti nelle strutture organizzate dalla prefettura, che avevano visto un aumento nel mese di luglio, sono rallentati ad agosto. Maddalena Von, operatrice legale di ICS. In questo mese di agosto trasferiscono 60 persone alla settimana, quindi è un numero che sarebbe sufficiente durante i mesi invernali, ma che nei mesi estivi si rivela insufficiente. Quello che ci chiediamo è come mai è così difficile per il Ministero degli Interni predisporre un numero leggermente più alto. Se abbiamo ad oggi 113 persone richiedenti asilo, basterebbe aumentare il numero dei trasferimenti settimanali a 100 invece che a 60, quindi parliamo di 40 persone in più alla settimana. Una situazione che si rispecchia anche nel numero degli ingressi a Trieste per la via balcanica, monitorati dalla Diaconia Valdese. Secondo le prime stime, hanno visto un leggero calo negli ultimi mesi. Marta Pacor, Diaconia Valdese. Il numero delle persone che decidono di rimanere a Trieste è un numero relativamente piccolo sulla base di quello che abbiamo riscontrato, ovvero in 2 mesi, cioè fra giugno e luglio, sono circa 600 le persone che hanno deciso di rimanere qua a Trieste. Si tratta quindi di numeri relativamente piccoli. Tra i casi di abusi denunciati dalle associazioni c'è anche il sequestro di coperte e altri oggetti personali avvenuto durante uno sgombero il 12 agosto. Lorena Fornasire, Linea d'Ombra. Nelle prime ore del mattino è arrivata qui la polizia con l'Ital Spurghi. La polizia ha intimato ai ragazzi di andarsene e l'Ital Spurghi ha sequestrato coperte, scarpe e altri beni personali. In questo caso, ad aiutare i richiedenti asilo sono state le associazioni da tutta Italia che in un gesto di solidarietà hanno inviato centinaia di altre coperte. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una informazione di servizio: in SIEL sta facendo ulteriori verifiche sul malfunzionamento registrato questa mattina al servizio del centro unico di prenotazione, il CUP regionale, che risponde allo 0434223522. L'operatività del numero telefonico era stata infatti compromessa da un guasto dovuto all'intenso fenomeno temporalesco che ha colpito il territorio. I tecnici hanno poi ripristinato il servizio nel più breve tempo possibile, ma come detto sono in corso altre verifiche. Eventualmente l'utenza può utilizzare i canali alternativi disponibili per le prenotazioni sanitarie, che sono il portale online regionale, gli sportelli CUP presenti sul territorio, le farmacie abilitate. La Federazione Autotrasportatori Italiani della Friuli Venezia Giulia definisce grave la situazione di congestione e ritardi che gli autotrasportatori della regione subiscono quotidianamente al casello dell'Isart a causa della chiusura dell'autostrada slovena H4. FAI parla di un enorme volume di traffico pesante deviato su un'infrastruttura che già di per sé è fragile e che trasforma l'Isart in un imbuto e penalizza l'intera catena logistica, con lunghe attese e code che comportano maggiore consumo di carburante, ritardi nelle consegne e perdita di competitività. Per gli autotrasportatori la chiusura dell'H4 ha messo in luce l'inadeguatezza della nostra rete viaria di confine e una gestione del traffico carente di un'infrastruttura obsoleta. La richiesta è quella di aprire un tavolo di confronto con la regione autostrada Adriatico per discutere soluzioni immediate e soprattutto una pianificazione a lungo termine. Intanto alla barriera dell'Isart proseguono i disagi tra i camion e i turisti di rientro per il controesodo. La coda ha già raggiunto i 6,5 km con i rallentamenti che proseguono anche dopo il casello in direzione Venezia. Chiudono per lavori, la promessa è di disagi contenuti in periodi relativamente brevi, ma poi la riapertura slitta di mese in mese e lascia interi paesi senza i servizi postali e spesso senza anche l'unico sportello bancomat disponibile in questo servizio. Ecco l'ultimo caso. A Precenicco, di nuovo un ufficio postale chiuso per lavori. Ad oltranza, dal 29 ottobre, riapertura slittata al 31 marzo, poi al 30 giugno, ora al 27 settembre. Hanno installato delle colonnine di ricarica elettrica, ha lavorato appena 20 giorni fino adesso e poi non si è visto più nessuno, denuncia il sindaco Andrea De Nicolò. Fuori materiali da costruzione abbandonati, sia sulla porta che nel parcheggio. Chiuso anche l'unico postamat del paese. Da Poste Italiane ci hanno detto che la ditta campana incaricata dei lavori non sarebbe più stata in grado di portarli a termine. Poi non ci hanno comunicato più nulla, continua il primo cittadino. È un pubblico servizio, io non posso chiudere il comune per quasi un anno. Avrei giustamente i cittadini inferociti sotto la porta. Per di più, dopo il Covid, hanno dimezzato da 6 giorni a 3 giorni le aperture settimanali, conclude. Arrabbiati molti dei 1.400 residenti, era l'unico bancomat del paese, un disagio soprattutto per gli anziani che non possono muoversi in autonomia, ci dicono. Secondo fonti consultate, a conoscenza delle dinamiche aziendali, il modus operandi è sempre lo stesso e i ritardi sono dovuti a un'errata programmazione temporale dei cantieri, alla progettazione affidata all'esterno di Poste e ad imprese affidatarie spesso distanti dai siti di esecuzione dei lavori. Il progetto Policy dei servizi di cittadinanza digitale, interessato da questi lavori, è finanziato per 2/3 con fondi PNRR e permette l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione come passaporti, certificati IMSS e anagrafici. A San Giorgio di Nogaro l'anno scorso i lavori dovevano durare 30 giorni, l'ufficio postale è rimasto chiuso per 6 mesi. A Gradisca di Sonzo, storia simile, alla Tisana 2 mesi di ritardo, casi analoghi anche in Veneto. A Premariacco quest'anno posta chiusa per mancanza di una porta per mesi, fino a un nostro servizio che si è occupato della cosa. Il giorno dopo, ci dice la barista del paese, magicamente sono venuti a prendere le misure della porta e in pochi giorni l'hanno montata e riaperto. Abbiamo contattato Poste Italiane per avere un commento sulla vicenda e siamo in attesa di un riscontro. Precenicco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'incremento a doppia cifra del numero di visitatori permetterà a Udine di investire i proventi per centinaia di migliaia di euro dalla tassa di soggiorno in promozione turistica. Sentiamo. Fare promozione senza pesare sulle tasche degli udinesi. Ecco come verrà reinvestita la tassa di soggiorno, introdotta a febbraio dal comune del capoluogo friulano. Dall'1,60 giornaliero del bed and breakfast ai 2 euro dell'hotel a 4 stelle. La stima di incasso è di 650.000 euro, ma grazie a eventi come la Supercoppa europea, concerti e i flussi della ciclovia sempre in crescita, Udine avrà più soldi da investire nella promozione del turismo. Il vice sindaco di Udine, Alessandro Venanzi. L'aumento sul 2024 è stato del 10,39, quindi un dato a doppia cifra molto importante che fa capire che Udine non è più una meta di passaggio, ma una destinazione. L'obiettivo è quello di far partecipare, per esempio, i nostri albergatori a delle fiere, perché i nostri albergatori sono quelli che quotidianamente veicolano la qualità del nostro territorio e della nostra città. Quindi dare in mano a loro questi strumenti è uno dei primi ragionamenti che abbiamo fatto. In Friuli Venezia Giulia la tassa di soggiorno vale 7,3 milioni di euro. Sulla mancata partecipazione invece dello stand Io sono Friuli Venezia Giulia a Friuli Doc, il vice sindaco di Udine Venanzi smorza la polemica. Nessuno strappo istituzionale, una decisione comunicata già lo scorso gennaio dalla regione, spiega. La regione è presente in via Vettore Veneto con tutte le aziende marchiate Io sono Friuli Venezia Giulia, semplicemente appunto c'è stata fatta credo un'operazione di razionalizzazione su piazza Primo Maggio, dove c'era un tendone dedicato ai più giovani per l'intrattenimento musicale, come dire, servizio che noi continueremo a dare. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Applauso di Confcommercio all'assessore alle infrastrutture Cristina Mirante per essersi fatta tramite con ANAS della richiesta del presidente provinciale Giovanni D'Appozzo, del presidente del mandamento di Lignano Loris Salatin e del presidente di Federalberghi FVG Enrico Guerin di prolungare l'apertura sulle 24 ore del valico di Monte Croce Carnico fino al 14 settembre. La prosecuzione dell'apertura H24 del valico rappresenta per Confcommercio e Federalberghi un passaggio strategico per garantire accessibilità, continuità dei flussi e competitività nei rapporti con i mercati del nord ed est Europa. Per le associazioni, la prevista chiusura notturna del valico a partire dal 26 agosto rischierebbe di compromettere l'ultimo scorcio di stagione estiva. 12.45, apriamo la pagina del tempo, il cielo è coperto sulla regione, tante le piogge, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 24.5°, mare poco mosso con temperatura di 25, a Udine 20 gradi, a Gorizia 19.5, a Pordenone 19, a Tolmezzo e Tarvisio 17 gradi, a Forni di Sopra 15, a Sappada 14, a Piancavallo 13, in quota sull'Ussari 11 gradi, sullo Zoncolan 9.5, sulla costa più caldo, a Grado 21.5, a Lignano 19.5, con temperatura del mare di 25 gradi in entrambe le località. Ora le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi cielo nuvoloso o variabile, saranno possibili rovesci e temporali sparsi a più riprese, ma alternati a pause senza piogge. Ulteriore lieve calo delle temperature. La Protezione Civile ha prolungato, ricordiamo, fino alla mezzanotte di oggi l'allerta meteo giallo, già in corso per rovesci e temporali sparsi che potranno essere forti, specie su pianura e costa. Oggi ricorrono i 50 anni dalla scomparsa di Rossella Corazzin, la 17enne di San Vito, di cui si sono perse le tracce mentre era in vacanza a Tai di Cadore. Questa sera uno spettacolo teatrale per ricordarla e chiedere verità. Era il 21 agosto del 1975 quando la 17enne Rossella Corazzin di San Vito al Tagliamento scompariva nel nulla a Tai di Cadore, dove era in vacanza con la famiglia. Oggi, a 50 anni di distanza, la sua città le rende omaggio con un reading di musica e recitazione alle 20.45 al Teatro Arrigoni. Giulia Napoli è assessora alle pari opportunità del Comune di San Vito al Tagliamento. La vicenda di Rossella Corazzin rappresenta una ferita ancora aperta per tutta la nostra comunità. A distanza di mezzo secolo, il dolore e l'assenza rimane viva nei cuori delle persone che l'hanno conosciuta, nei parenti, ma anche per chi come me non ha avuto il piacere di incontrarla, ma comunque sente ancora l'esigenza di ricordarla. La nostra amministrazione sente il dovere di rimanere vicino alle famiglie delle persone scomparse e a mantenere alta l'attenzione per queste tematiche, per queste vicende che purtroppo non hanno ancora avuto una risposta. Lo spettacolo è a cura di Roberta Garlatti, amica di Rossella, di cui conserva una cartolina scritta pochi giorni prima della scomparsa. Roberta Garlatti. È una cartolina datata 17 agosto 1975 e mi sto divertendo. Ciao Rossella. Il caso fu riaperto nel 2016 e poi archiviato perché le dichiarazioni di Angelo Izz, uno dei mostri del Circeo, sul rapimento, stupro e uccisione della giovane furono ritenute inattendibili dalla Procura di Perugia. Della vicenda si occupò di nuovo una commissione parlamentare antimafia, lavoro interrotto con la passata legislatura. I familiari richiedono di non fermare la ricerca della verità. La richiesta è non fermarsi, non dimenticare e continuare a cercare la verità. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina degli spettacoli adesso con alcuni appuntamenti. Hic sunt leones, i nuovi straordinari talenti della lirica italiana a Grado nella Basilica di Santa Eufemia. Alle 21 Michela Pugliese, Silvia Spessot, Lara Command, Kevin Baliviera, Riccardo Corona interpretano la tradizione operistica italiana da Donizetti a Bellini fino alle difficili pagine di Giacomo Puccini, accompagnati al pianoforte da Gabriele Avian. A Borgo Runcis di San Giovanni di Casarsa, lo spettacolo teatrale Il Resto è Sogno, adattamento originale da Sogno di una notte di mezza estate e Amleto di Shakespeare, alle 21. Le Muse Orfane mette in scena la commedia corrosiva e brillante Nudi e Crudi con Caterina Comingio e Francesco Cevaro, alle 21 all'ex convento di San Francesco a Pordenone e a Remanzacco all'Arena del Broilo Perosa, spettacolo di Burattini La storia di Pinocchio della compagnia Alberto De Bastiani, sempre alle 21. L'11ª edizione di Invisible Cities, festival urbano multimediale, si svolgerà dal 27 al 31 agosto tra Gorizia e Nova Gorizia e dal 3 al 7 settembre a Gradisca. Organizzato dall'associazione 4704, il festival propone 63 eventi, di cui 11 prime regionali e 9 nazionali. Al centro dell'edizione 25, anno della capitale europea della cultura, il tema del contemporaneo declinato attraverso linguaggi ibridi e partecipazione collettiva. Il cartellone spazia da performance nei parchi e negli spazi urbani, esperienze multimediali, concerti, narrazioni e installazioni. Il pubblico sarà guidato in luoghi simbolici come l'ex cotonificio di Piedimonte, il parco della Rafuta e il ponte di Salcano. Tra gli ospiti Cristina Donate, Oteardo e Marta Cuscunà. La manifestazione sarà presentata oggi, ne abbiamo parlato in anteprima con il direttore artistico Alessandro Cattunar. Invisible Cities in quest'anno particolare è un po' un punto d'arrivo e un punto di ripartenza. Un punto d'arrivo perché è il festival che forse meglio incarna lo spirito della capitale europea della cultura. È un festival che mescola i linguaggi del contemporaneo, i linguaggi del teatro, della danza, della letteratura, della storia. E mescola i punti di vista differenti sul piano nazionale, perché abbiamo artisti provenienti da tutta Europa e in particolare da Italia e Slovenia che dialogano fra di loro, e poi mescola le sensibilità. È un festival che spinge verso un'innovazione nei linguaggi, però è un festival che vuole parlare a un pubblico ampio. È anche importante Zero Gradi di Separazione, che è un progetto dedicato all'accessibilità in ambito culturale per tutte le persone con diverse forme di disabilità. Sì, è un progetto a cui teniamo molto, a cui stiamo lavorando con Miriam Paschini ormai da 4 anni, ed è un approccio un po' diverso. Intendiamo sicuramente rendere accessibili i luoghi dove si tengono gli eventi, ma soprattutto vogliamo far capire che gli spettacoli di danza, di teatro possono essere fruibili dalle persone ipovedenti, dalle persone sorde, e possono essere pensati fin da subito questi spettacoli affinché siano fruibili da tutti. Gorizia è un po' una città invisibile? Lo è, il titolo è nato 11 anni fa proprio pensando a Gorizia. Giochiamo un po' con questo nome perché il festival si chiama In/Visible Cities e da un lato vuole scoprire quei luoghi poco appariscenti, quei luoghi che nascondono un passato e storie complesse, articolate e affascinanti, che vanno però riportate alla luce attraverso i linguaggi della narrazione. Dall'altra parte giochiamo nelle città visibili, quindi In/Visible Cities, perché è un festival che in realtà vuole abitare i tanti diversi spazi, portare performance nei luoghi storici, nei luoghi naturali, lungo l'Isonzo, nei parchi, nelle ville storiche. Da oggi al 3 settembre la Sala Umberto Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste ospita la mostra Identità e Alterità di Anna Colitti e Richard Ewan. La presentazione ufficiale si terrà alle 18.30 alla presenza degli artisti. L'esposizione indaga il tema dell'identità nelle sue diverse declinazioni, dal sé all'altro, dal concreto all'intangibile. Colitti lavora con fotografia e autoritratto, mentre Ewan, artista concettuale, esplora il linguaggio attraverso video e installazioni. La mostra, curata da Giorgio Bonomi, sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Nell'ambito dell'iniziativa L'Ora di Storia proseguono oggi il 28 agosto alle 19 le visite guidate al Castello di San Giusto a Trieste, con un esperto del museo che condurrà i visitatori lungo le mura e sui bastioni, raccontando la storia della fortezza di Trieste. Le visite, della durata di circa un'ora, sono in ingresso gratuito. Adesso lo sport con il calcio. Per maltempo si è spostata allo stadio la presentazione dell'Udinese, che doveva tenersi alle ore 18 nella centralissima piazza Venerio. L'evento è stato appunto spostato al Friuli, con ingresso gratuito alla tribuna coperta. Inizierà poi alle 19.30 con la presentazione della formazione primavera. Alle 20 sarà il momento più atteso, con l'ingresso sul palco della prima squadra. Sul mercato rimane vicino Zanoli. L'operazione si farà presumibilmente venerdì o la prossima settimana. Per la pallacanestro in Serie A2, esordio in amichevole per la nuova Gesteco Cividale di Pillastrini, a un mese esatto dal debutto in campionato a Torino. A Riccione alle 20.30 i gialloblu affrontano Pesaro. Domani invece sfida la Fortitudo Bologna nella massima serie. Hanno iniziato invece da pochi giorni le due regionali. La APU prosegue il lavoro al Carnera prima del ritiro della prossima settimana a Tarvisio, con un media day fissato per mercoledì. Trieste ancora senza i 3 nuovi acquisti stranieri bloccati oltreoceano da questioni burocratiche. Ha iniziato a lavorare ieri e tra poco, al termine della sessione di allenamento in corso, presenterà il nuovo coach Israel Gonzalez. Si svolgerà a Trieste il primo campionato italiano Open ORC Double Handed, una novità nel panorama della vela d'altura in Italia. Sarà Trieste ad assegnare il primo titolo di campione italiano di vela d'altura ORC Double Handed. Lo ha deciso la Federazione Italiana Vela al momento di dare il via all'albo d'oro dello scudetto tricolore di questa specialità, che mette a confronto barche di dimensioni e prestazioni diverse, con equipaggi di due persone in percorsi offshore di media e lunga percorrenza, che tengono impegnati i team anche per 24-48 ore. La sfida si disputerà in due prove, mercoledì 27 agosto la prima inshore race della durata di 6-8 ore, giovedì 28 la prova offshore su un percorso che partirà davanti a Piazza Unità al tramonto e porterà gli equipaggi a doppiare il faro croato di San Giovanni in Pelago per fare poi ritorno sulla linea di arrivo a Muggia, davanti a Porto San Rocco. Fra i 29 equipaggi al via due stranieri, uno tedesco e uno sloveno, e anche quello composto dalla presidente della Società Triestina della Vela, Marina Simoni, e dal presidente del contiguo Yacht Club Adriaco, Nicolò De Manzini, per suggellare di fatto sul campo di regata l'amicizia che lega da sempre i due yacht club centenari. Previsti anche titoli per le varie divisioni, maschile, femminile, in questo caso non presente, e mista. La competizione servirà fra l'altro a indicare quelli che saranno gli equipaggi che prenderanno parte al campionato mondiale di specialità, in programma una settimana dopo a Monfalcone. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. In regia Walter Vidonis e Caterina Cabrelli, in redazione ha collaborato Laura Sarasini, da Andrea Saule e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.